Noi siamo abituati e leggiamo volentieri episodi eclatanti della Bibbia, quali il passaggio del Mar Rosso degli ebrei, il sole che si ferma per quasi un giorno al tempo di Giosuè, l'episodio di Davide, ancora giovinetto, che vince Golia, un uomo alto più di 3 metri, eppure nella parola di Dio è narrata una testimonianza anch'essa certamente unica, ma che non sempre è oggetto di meditazione. Si tratta di un'esperienza dell'Apostolo Paolo che per forza di cose egli ha dovuto confessare in una sua lettera scritta ai credenti di Corinto, testimonianza che rivela come la debolezza possa essere uno strumento nelle mani di Dio. Lo strumento, certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi non sarei un insensato perché direi la verità. Ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo, ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. 1 Corinzi 12, 1. L'Apostolo Paolo non era propenso a narrare questo episodio avvenuto nella sua vita, perché non voleva che gli altri avessero di lui una opinione oltre ciò che era giusto. Ma in questa occasione, per onorare il Vangelo che predicava, fu costretto a rivelare che era stato temporaneamente rapito, fino in paradiso. E poiché Paolo, come tutti i grandi profeti prima e dopo di Cristo, era un uomo, come tutti, all'inclinazione e all'orgoglio, Dio provvide di tenerlo nell'umiltà con un certo tipo di sofferenza. Paolo aveva pregato 3 volte Gesù Cristo perché potesse evitare la sofferenza alla quale era sottoposto, ma la risposta che ricevette era categorica: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. La replica di Cristo non è stata solo una risposta diretta ad una domanda, ma ha messo in evidenza un principio da lui usato per dimostrare che egli può adempiere la sua volontà anche avvalendosi della debolezza dell'uomo. Molto probabilmente, chi legge la Bibbia da anni e conosce questo episodio sorvola il contenuto della risposta. Ma se osserviamo come l'uomo dimostra il suo potere, ne rimaniamo almeno scioccati. Tutti noi dimostriamo le nostre capacità o il nostro potere per mezzo del nostro vigore o virilità, mai per mezzo della nostra debolezza. Tutti noi desideriamo mettere in mostra i punti a nostro favore, mai quelli che ci darebbero vergogna. Questo è consone alla nostra natura. Proprio per questo la risposta di Cristo è veramente impensabile e perciò scioccante. Il principio di Dio è dunque quello di rendere le persone deboli per poter manifestare la sua potenza, e se ci è una cosa che non vogliamo assolutamente sperimentare, è la nostra debolezza. Anzi, noi ci lamentiamo molto spesso perché ci sentiamo deboli, incapaci, soprattutto quando Dio ci chiama a compiere certe cose. Quando Dio ci chiama a testimoniare, a pregare, in modo particolare per una situazione, quando siamo giovani predicatori e viene chiesto di parlare davanti a un folto pubblico, ecco che ci rendiamo conto di non essere all'altezza della situazione, vediamo i nostri limiti umani e proprio per questo ci sottraiamo dal compiere la volontà di Dio. Non ci sottraiamo per negligenza o perché non amiamo il nostro Signore. Ma proprio perché amiamo il nostro Signore, vedendoci incapaci, non vogliamo disonorarlo con la nostra debolezza. Se fossimo all'altezza della situazione saremmo ben contenti di servire il Signore, ma dato che non lo siamo, pensiamo che sia meglio rifiutare l'incarico. Così, L'ostacolo più grande per lavorare nella vigna di Cristo non sono le nostre debolezze e incapacità, ma la mancanza di fiducia che Dio ci sappia usare proprio perché siamo deboli. Eppure dalla storia biblica fino ai nostri giorni Dio ha sempre usato le debolezze degli uomini per compiere le più grandi cose. E poiché Dio non è cambiato, ancora oggi dobbiamo aspettarci che Egli continui ad usare lo stesso principio. Di fronte alle nostre incapacità Dio usa due metodi. O le usa perché non ci confidiamo in Lui, o ci porta alla convinzione che esse non sono strumenti nelle sue mani. Dopo di questo Lui le userà, e lo dimostrano gli esempi biblici. La parola di Dio ci ricorda che l'Eterno promise un figlio ad Abramo, e il patriarca pensava di averlo nel modo più naturale, e lo dimostra il fatto che lo ha cercato quando era nella possibilità di farlo. Ma l'Eterno aspettò che egli diventasse impotente e che sua moglie non fosse in grado di generare figli, e solo allora permise a loro di avere il figlio della promessa. Quando Dio chiamò Mosè per liberare il popolo di Israele, l'uomo di Dio avanzò varie scuse per non andare, e gli rispose: «Deh, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Ma alla fine, nella sua totale debolezza, accettò il compito. Anche il profeta Geremia, quando venne scelto per profetizzare a molte nazioni, avanzò delle ragioni per non profetizzare, e una delle quali era che non sapeva parlare perché era un fanciullo. E l'Eterno gli rispose: «Non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno». Geremia 1:7-8. Giustamente Geremia aveva paura, sentiva tutta la sua debolezza, ma l'Eterno insistette forse proprio per questo. Anche l'apostolo Pietro, quando si trovava nel pieno vigore della sua vita, aveva chiesto di seguire Gesù. Egli pensava di essere il migliore dei discepoli, era fortemente convinto della validità del suo zelo. Ma Gesù lo chiamò a lavorare definitivamente nella sua vigna quando questo ebbe paura e lo rinnegò per 3 volte. Solo allora, nella piena consapevolezza della propria capacità di compiere qualsiasi azione malvagia, l'apostolo onorò Cristo con una vita e una morte gloriosa. Questo è il principio di Dio, che l'uomo tocchi il fondo e una volta resosi conto della più totale incapacità di essere uno strumento nelle mani di Dio, la persona dello Spirito Santo lo può usare come vuole. Uno strumento è utile ed efficace nella mani di una persona solo se è completamente abbandonato. Nelle mani di chi lo usa, diversamente, se un martello potesse ribellarsi e si ribella, non potrebbe più essere utile in modo efficace al padrone. Più totale è l'abbandono, più il lavoro viene meglio. Più debolezza ha lo strumento, più forza può dimostrare chi lo usa. Noi abbiamo l'idea che i grandi uomini di Dio avessero capacità e forza, ma anche se c'è del vero in questo, la loro grandezza era proporzionata alla loro debolezza. Più compivano cose grandi, più erano deboli e incapaci. Diversamente, la gloria non sarebbe andata a Dio, ma a loro. La potenza di Dio si dimostra nella debolezza, soprattutto quando le persone testimoniano della loro conversione a Cristo, mediante un atto di fede compiuto in età adulta. In effetti, una conversione senza la presa di coscienza della propria debolezza e incapacità di salvarsi è da mettere in discussione. Ho avuto la gioia nella mia vita di udire delle testimonianze toccanti. Una donna aveva deciso di suicidarsi e per non fare rumore accese la radio. In quel momento vi era un programma dove si parlava del Vangelo. Ascoltò, ricevette il messaggio e divenne figlia di Dio. Nel momento della debolezza Dio intervenne. Un uomo per anni aveva ascoltato l'Evangelo senza dare ad esso nessuna importanza. Venne il giorno che si ritrovò ammalato con un tumore. In quella posizione supina pregò Cristo Gesù, lo riconobbe come il salvatore della sua anima diventando un figlio di Dio. Fu guarito non solo nell'anima ma anche nel corpo perché morì dopo molti anni senza tumore. Quell'uomo dovette toccare l'estrema sua fragilità per consacrare la sua vita a Cristo. C'era un altro uomo che ascoltava volentieri l'Evangelo e in un momento di malattia chiese di pregare perché guarisse. Mi misi in ginocchio e pregai perché potesse stare male fino al punto di decidere per Cristo Gesù. Andò all'ospedale e nella sofferenza consacrò la sua vita a Cristo. Sarebbe un grosso errore pensare che la debolezza serva solo per diventare figli di Dio, perché tutta la nostra esistenza per essere in grado di onorare Dio ha bisogno della nostra fragilità e della consapevolezza di esserlo. Spesso certi matrimoni hanno degli alti e bassi più del dovuto. I coniugi mettono tutte le loro forze e il loro impegno fino a quando non arriva una ennesima crisi molto seria che li porta vicino al divorzio. In quella condizione si mettono a pregare e Dio interviene miracolosamente. Nella nostra vita spesso i momenti più proficui sono quelli più fallimentari. Nel lavoro, per quanto mi riguarda, ho iniziato a raggiungere livelli di qualifica impensati proprio quando qualcuno mi disse: «Ellero, tu non imparerai mai». Nella mia disperazione ce la misi proprio tutta e raggiunsi traguardi non indifferenti. Chi ha il ministero della predicazione del Vangelo ha realizzato che molto spesso i migliori sermoni sono proceduti nei momenti di maggior debolezza. Perfino i balbuzienti nella loro debolezza possono parlare speditamente. Il Dio dei cristiani è un Dio potente, è il Dio dell'impossibile. Noi non dobbiamo avere una grande fede in un Dio che compie grandi opere potenti con cose grandi, ma una fede sufficiente in Dio che sappia compiere cose straordinarie con le debolezze degli uomini. Noi abbiamo la mania dei super, abbiamo la benzina super, dei pentiti super, un bianco super, la macchina super e persino il Superman. Dio non sa che farsene dei nostri super. Perciò se siamo deboli, rallegriamoci. Se siamo dotati, confidiamo nella sua potenza, non nella nostra forza. L'Eterno Dio cerca debolezza per dimostrare la sua potenza. L'esempio più bello di questo principio è stato Cristo Gesù. Egli è venuto come un agnello, ha servito come un servo, ha realizzato l'estrema debolezza. Nel Getsemani ha pregato 3 volte se era possibile evitare la croce. Ha pregato in aramaico quale estrema dimostrazione di ogni spogliamento, ma la potenza di Dio si è adempiuta in lui. Se è stato così per Gesù, allora non possiamo pretendere che Dio usi un altro principio nei nostri riguardi. Preghiamo ogni giorno con le parole del salmista: «O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile». Salmo 39, 4. Maggio 2005. Ellero.